Che differenza fa tra questa situazione e quest'altra, da un punto di vista, fosse un'organizzazione? Da dove... Vanno nella stessa direzione. Ecco, e come fanno a dare le frecce nella stessa direzione? C'è un obiettivo comune. Eh sì, ma potrebbe essere che abbiamo un obiettivo comune, ognuno lo può realizzare a suo modo. C'è un riconoscimento del valore dato comune. C'è il rispetto del bene di tutte le parti. C'è il bene di tutte le parti. E c'è una direzione comune. Spesso la allora vediamo com'è. Allora, questa che fa moltissimo con la lingua civile. Prendete un gruppo di cacciatori, da lì che poi nasce. Un gruppo di cacciatori vanno dietro un animale molto più forte di loro. Per poterlo abbattere hanno bisogno di essere uniti. Per essere uniti, cosa fanno i cacciatori di solito? Succede naturalmente che uno di loro diventa leader, ma non perché si impone, ma perché funziona quella situazione lì. Magari a cacciare il bisonte diventa leader uno, a cacciare i serpenti diventa leader uno. Però in quel momento lì avviene naturalmente che si segua la linea, come negli uccelli, ce n'è uno che davanti prende la leva via. Nel nostro cervello c'è qualcosa di simile o no? Sì. C'è il lobo frontale sinistro. Il lobo frontale sinistro è il centro direzionale. E se i centri emotivi dicono non ci interessa quello che dici tu perché dobbiamo essere autonomi, certo che lo possono fare. Ma dovrà finire qua. Perché il cervello? Perché è un cervello più arcaico. Allora, i centri emozionali funzionano benissimo per un rettile che deve ripetere sempre le stesse cose. Per un essere umano la leadership richiede una complessità superiore. Questa complessità superiore risiede nel lobo frontale sinistro. Se togliete una persona il lobo frontale sinistro, la sua leadership va sotto terra. Quindi abbiamo anche nella struttura, proprio potete studiare il cervello, vedete che sono delle strutture che sono in qualche modo deputate a svolgere quella questione di guida. Prendete una direzione, l'orchestra, si dice tutti ci rispettiamo, tutti facciamo, funziona. Funziona finché facciamo musica tipo barocco. Più o meno lì il primo violino ce la faceva. Comunque c'era anche lì un leader, partiva il primo violino. Via via che andiamo verso musica romantica o musica sempre più complessa, l'orchestra non ce la fa. Quindi si forma una persona che ha il compito, la funzione di fare questo, non di suonare, ma di... È una funzione, il teatro è una funzione. Se tutti si accordano intorno a questo progetto, si può realizzare una bella sinfonia di Mahler in cui le cose vanno bene, funzionano tutti. È un regista, funziona tutto bene. Allora vorrei che pensaste ieri al lavoro che abbiamo fatto quando Marina è venuta a fare la parte dell'io. E Monica c'era dall'altra parte, c'era un'altra ragazza. C'eri. Allora questa diceva no, io non voglio più sapere, devo fare la vita mia, e questa è la prepotente, mia madre è la prepotente. E l'altra dice ma no, ma guarda che tua madre fa molto per te, così. Bene, quando in una persona si verifica questo, è unita, ok, è in grado di amare? No. Può dirsi una persona che in quel momento è spirituale? No. E allora cosa ci vuole? Ci vuole una nuova funzione che deve emergere, che è la funzione di integrazione come direttore d'orchestra. Il quale cosa fa? Riconosce questa parte fino in fondo, riconosce quell'altra parte e coglie in tutte e due le parti l'aspetto di anima, lasciando andare quello che non va. Questo lo vedete a tutti i livelli. Allora ritorno indietro. Senza rinuncia ci può essere amore? Ci può essere amore inaffidabile. Certo, una persona che ti dice che ti ama da morire, in quel momento è vero, perché è emersa una parte che ha preso il comando e dice così. Poi quella che viene all'improvviso bisogno deve andare in bagno, ne viene un'altra, quella te, non ti vuol vedere. Questa è l'esperienza che alcune persone fanno nella vita, si fidanzano, magari mettono su famiglia, fanno figli con persone che hanno dentro questa struttura e sono comunissime, non ci viene niente di strano. Anzi, fa parte della la società interna della maggioranza delle persone, rispecchia la società esterna. Guardate un po' se un governo oggi riesce a governare, ce la fa, è ricattato dai centri di potere economico, finanziario, da tutto. Ci siamo su questo? Allora, il passaggio alla spiritualità può avvenire se non c'è un'integrazione interna. Certo può venire, una parte si mette e diventa spirituale, le altre e le altre fanno tutto il contrario. Se non c'è unità. Non c'è unità. Quindi la persona, certo, fa le pratiche spirituali, come no? Mentre le fa è in quella parte. Quando tu esci di lì, va in altre parti, fa tutto il contrario. Va lì e dice che sarà fedele a sua moglie, a suo marito, che fa. E lo è, ci crede. Esce di lì, cambia. Va? È la prima donna che passa. Ma non so tanto. Allora, ancora più pratiche di prima, più preghiere, più meditazioni, più cose. Se non è integrato, questa si rinforza nella sua decisione, nell'altro.